Effetto Mondo. It was a horrible, the kidnapping, the purchase of those slaves, the dungeons in which they were kept, and if they survived that, to be on a slave ship, and if they survived that, to be sold into slavery. Buongiorno a Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Buongiorno, buongiorno. Introdotta dalla voce di Nancy Pelosi, giusto? Sì, Nancy Pelosi che ieri ha partecipato, ha organizzato anzi questo rito, diciamo, di per rendere onore a George Floyd, lei e altri membri della House of Representatives, cioè della Camera Bassa del Parlamento americano, si sono inginocchiati per 8 minuti e 46 secondi, cioè quel tempo ormai famoso in cui il poliziotto ha premuto sul collo di George Floyd. Subito dopo però ha tenuto questo discorso. Il breve brano che abbiamo sentito è secondo me molto interessante perché è il primo esponente politico di grande rilievo che ha avuto il coraggio di tornare sul tema della schiavitù e ha ricordato questo viaggio che hanno fatto in Africa per vedere i luoghi dove le persone venivano kidnapped, cioè rapite, e poi naturalmente sulle navi degli schiavisti portate verso l'America. Lei dice a quel tempo non c'erano ancora gli Stati Uniti, però attraversavano l'Atlantico per venire verso l'America. Lo ricordiamo ancora una volta: abolizione della schiavitù negli Stati Uniti 1865. Questo però è lo spunto perché subito dopo Nancy Pelosi, insieme a due senatori democratici neri, Cory Booker e Kamala Harris, hanno presentato questo di cui parlano tutti i giornali oggi, questo piano di riforma, questo progetto di legge, Act è il termine americano per legge, che si chiama Policing Act, New Justice of Policing Act, che prevede una serie di inasprimenti per tutti i poliziotti che usano eccessiva violenza, cambiamento, potremmo dire, delle regole di ingaggio, cioè quando diventa lecito l'uso della forza e in particolare queste tecniche di mobilizzazione tramite il ginocchio o altri metodi. Non si parla però di finanziamento. Questo è invece un tema sul quale si è espresso, e anche qui ne parla il New York Times, che tra l'altro aveva ieri l'anticipazione di questo progetto di legge. Si è espresso Joe Biden dicendo: certo, la riforma è necessaria e vediamo se questo progetto nostro democratico potrà andare avanti veloce, però io sono contrario a qualsiasi taglio invece dei fondi alla polizia, cosa che invece è stata annunciata dal sindaco democratico di New York Bill de Blasio. Il governatore Cuomo è stato molto più cauto, perché naturalmente meno fondi vorrebbe dire aumentare probabilmente l'insicurezza nelle strade delle grandi città, e il Washington Post ricorda che già prima del Covid in molte grandi città americane la criminalità era in aumento e purtroppo presumibilmente con il disagio sociale aumenterà ancora. Abbiamo un altro audio che vuoi farci sentire, Giulia, sì, sempre dall'America? Sì, perché mentre i giornali europei, diciamo, hanno dato molto spazio sulla prima pagina dell'Independent di El País a questa foto dei deputati inginocchiati, sì, sui giornali americani c'è stato più spazio per la commemorazione ieri a Houston di George Floyd, e oggi con i funerali si chiude un po' questi 12 giorni di commemorazioni. E quindi sentiamo, perché naturalmente il tema è anche quello di come sta reagendo la Casa Bianca a queste proteste sempre più pacifiche, sempre meno violente, e l'audio è di Dwayne Johnson, The Rock, questo ex giocatore di football, metà nero e metà di origine hawaiane, samoane, ex giocatore di football, ex wrestler, che anche lui si è fatto portavoce della necessità che gli Stati Uniti prendano coscienza delle disuguaglianze, soprattutto delle discriminazioni. Sentiamolo. Where is our leader? Where are you? Where is our leader at this time? Che però, Giulia, a differenza di altri, sì, star, voci, attori, insomma, hollywoodiane più o meno, eccetera, non è schierato con i democratici, ma lui è notoriamente un repubblicano. Però stavolta ha battuto un colpo dall'altra parte. Diciamo così. Sì, che come molti, insomma, ricordiamo anche Clint Eastwood, che per un breve periodo era stato democratico, poi è tornato a essere repubblicano, adesso chissà, tanti personaggi dello spettacolo, specie appunto di così attori famosi per i ruoli di azione, perché poi lui è diventato attore, Fast and Furious, Hercules, tutti questi film d'azione. È un signore che è alto 1,98 m e pesa 120 kg, ma l'avrete presente. E sì, ha avuto simpatie per i repubblicani, poi un colpo di fulmine nel 2000 per i democratici, e adesso lui credo che non voglia, se diventerà un eroe dei democratici, lo diventerà suo malgrado. In questo lungo video, 8 minuti, dice proprio con una calma che contrasta, no, con questo aspetto da Ercole, ma dov'è il leader? Dove sei? Quasi rivolgendosi direttamente a Trump, perché lo abbiamo detto, per ora Trump si è un po' limitato a dire law and order, voglio ristabilire la sicurezza, la calma, le persone, nessuno deve vedere le proprie attività in pericolo, cioè focalizzandosi solo sulla parte violenta della protesta, come per non vedere tutto il problema che c'è sotto. E quindi, insomma, questo appello che è già diventato virale con questo hashtag: Where are you? Dove sei? Dove sei tu, leader, che non ci sei? Giulia, ti vorrei portare a questa al risalto che la stampa internazionale dà allo studio di Nature sull'utilità del lockdown, proprio nei giorni in cui invece dalla Cina arriva la notizia che l'epidemia sarebbe partita molto prima. Cioè, un altro studio dice che sarebbe partita molto prima, il che, come dire, avrebbe in qualche modo reso, non dico inutile il lockdown, ma l'epidemia si sarebbe conclusa con un suo andamento naturale. Invece lo studio di Nature che dice? Studio di Nature, che ha preso, Nature è una rivista scientifica prestigiosa, non è riservata solo agli scienziati, ha un che anche di divulgativo, ma di divulgazione scientifica molto alta, e ha preso in esame i dati di 11 paesi, tra i quali anche l'Italia e la Spagna. Per esempio, è il paese in prima pagina, dice che il confinamento, perché loro non hanno voluto usare la parola lockdown, hanno usato confinamento, ha salvato 450.000 persone soltanto in Spagna. Questi dati vengono riferiti anche dai giornali americani. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, e torniamo sempre lì, Alessio, sembra davvero di sentire un po' tutto il contrario di tutto. Sì. Questo è uno studio autorevole, però come dicevi tu, il Telegraph per esempio oggi si chiede: ma il lockdown ha fatto più bene o più male? Quindi insomma, vedremo, insomma, forse un giorno ci sarà, non dico un algoritmo, ma un super computer che riuscirà veramente a mettere insieme tutti questi studi, a sintetizzarli e a darci una parola definitiva sull'utilità delle misure che sono state prese. A un paio di minuti ancora, Europa, che cos'altro abbiamo? Francia, Germania? Sì, la Francia ancora naturalmente mette, perché abbiamo detto ieri, anche in Francia ci sono state tante proteste, quindi il Macron ha proprio fatto una richiesta, che si faccia luce sulle violenze della polizia. Sì. Però il titolo principale di Le Figaro è: la frattura razziale al cuore delle presidenziali. E l'editoriale è: il falò delle vanità, Boucher des vanités. E perché, che naturalmente è anche il titolo di un famoso libro Tom Wolfe, un libro famosissimo da cui è stato anche tratto un film, perché il tema è ancora anche qui questa reazione: ristabiliamo l'ordine, non basta, cioè sotto appunto al cuore delle presidenziali c'è in realtà la questione razziale, che ha poco a che fare con parole d'ordine come law and order. Invece è interessante, ho trovato Le Monde, se abbiamo ancora qualche poco secondo, perché è tornata un po' di pubblicità, abbiamo pochi secondi. Approfondisce le prossime elezioni, l'appuntamento elettorale europeo che ci sarà in Polonia il 26 di giugno, ed è un po' il primo appuntamento elettorale, diciamo, post pandemia, e anche metterà un po' alla prova l'attuale classe politica, il governo polacco, che è notoriamente sovranista, e vedremo se ci sarà un effetto o no. Se lo chiede Le Monde, vedremo anche noi, staremo a vedere. Ok, grazie Giulia, ci risentiamo domani con te e anche con tutti gli ascoltatori per la puntata di Effetto Giorno, oggi con Filippo Reggi in regia, Danilo Di Trani in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione. Ciao, buona giornata da Alessio Maurizi.